Senta. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Io dico sempre la verità, anche quando dico le bugie. Che dovremmo contrastarli qua dentro, il Gerusso. Ogni qualvolta mistificano la realtà, ogni qualvolta si ergono a depositari di una morale. Io ricordo a me e agli astanti quella parte che dice: le vergini dai manti di dai canti di manti, rotte di dietro e sane davanti. Senatore, qua non è che siamo a una festa di laurea goliardica, prego. Senatore, a fine seduta potrà fare, immagino che sia una replica al Palè, è intervenuto, c'è stato un osservatore. A fine seduta, su che cosa? Non sulle questioni che abbiamo già discusso, no, su altro. Presidente, io ho citato le figonie. No, vabbè, adesso credo a... Guardi, io pensavo di avere risolto la questione apprezzando più Voltaire, che era anche una censura a una citazione inopportuna. Ora... Ah, ragazzi, è tornata la politica, cioè, tra l'altro, Danna che doveva dire, ho citato l'Ifigenia, e ha detto l'Ifigonia, che un po' emetto, come dire, un po' diverso. Vabbè, insomma, ecco, non lo so, bisognerebbe fare delle spiegazioni, ma insomma si può capire, no, l'Ifigenia in Aulide, ma lui ha citato l'Ifigonia, che è un altro tipo di poemetto un po' più goliardico. Vabbè, ma insomma, dai, non andiamo nei dettagli. Oh, il senatore Dan rischia di diventare un nuovo paladino, un nuovo Razzi, mi sa, un nuovo Razzi. Stiamo creando in culla un nuovo Razzi. Il senatore Dan. Signori, è venerdì, sono le 6:33 minuti. Voglio salutare, oh, mitico Remo dalla Dig. Remo, guarda che l'altro ieri Veronica Gentili ti ha citato in onda, devi andare a recuperarti il podcast, perché ha detto in chiusura di trasmissione che deve venire a trovarti, ufficialmente qui dalla diretta. È venerdì, urliamolo tutti insieme, Milan, è venerdì. Allora, saluto dalla Dispoli Mario, saluto Remo, come detto, nella sua La Digue Seychelles. Rosanna da Porto Gruaro. Marco, il nostro fornaio di Ravarino, ci fa sapere che c'è talmente umido che c'è la nebbia stamattina a Ravarino. Marco da Monteveglio sempre ci dice che è venerdì. E va bene, noi abbiamo il senatore D'Anna. Mentre in Turchia si sospende la convenzione di diritti umani, c'è il sindaco di Istanbul. Il sindaco di Istanbul ha pure detto questo ieri: bisognerebbe fare un cimitero con i traditori dove ognuno possa passare e maledirli. Questo è il clima in Turchia, eh? C'è la Francia, c'è Nizza, beccano quelli dell'ISIS che forse vogliono colpire le Olimpiadi. E noi abbiamo il senatore D'Anna, signori! Helsinki presente! Salutiamo Dante da Helsinki. Che fa freddo di questi tempi, no? Farà caldo anche a Helsinki, immagino. Così come Giorgio da Campagnano, Roma, Campagnano di Roma. Allora, intanto voglio salutare Silvia Brasca del TG della 7, che si trova, credo, in quel di Nizza, è vero? Sì. Com'è sì, il clima lì a Nizza? Cioè, si è riusciti un pochino a guardare avanti oppure si è tutti riversati? Sì. No, vabbè, sì, come abituato in Israele, ad esempio, non mi fa impressione vedere che la parte della spiaggia, della promenade è piena di gente in spiaggia e sopra c'è questo mantello straziante di fiori e di peluche, straziante. Però qua, la vita deve andare avanti, e chi fa il suo lavoro lo fa, come i colleghi di Liberation che hanno fatto una bella inchiesta, la stanno anche portando avanti e... Sulla sicurezza. Poi dicono dicono fare come in Israele, dove si vive un po' più blindati, perché si sa che la minaccia terroristica c'è. Ma a un certo punto è il fatto che bisogna tenere la guardia alta e pensare, essere sempre nell'immediatezza di un attacco, quindi avere una reazione essere pronti senza... più che altro quello, essere pronti senza isterismi, senza sapere che fare. E non mi sento neanche di buttare la croce sulla sicurezza messa in campo il 14 luglio perché purtroppo c'è sempre una prima volta. Sono gli incidenti aerei, ogni incidente aereo se ne evitano altri 10. È così. No, loro avevano pensato alla sparatoria al kamikaze tra la folla, non avevano pensato a un camion che tra l'altro non doveva passare perché era troppo pesante neanche i giorni prima. Ecco, quindi allora, ci sarà un'inchiesta. Vedremo che succede. Insieme a Silvia Brasca voglio salutare dalla sua Mondello, immagino, il grande Vincino, il grandissimo. No, non sei a Mondello, mi hanno subito distrutto. Dove sei? Vincino? A Roma, che tristezza. A Roma, lo so. Devi stare a controllare la raggi. Mamma mia. Quanti gradi ci sono a Roma? No, Di Maio devo controllare. Di Maio. Fatto quella cosa là. Apriamo il Parlamento, esatto. Noi oltre al senatore D'Anna. Oltre al senatore D'Anna abbiamo Di Maio che ha parlato in un lungo post, poi si è scusato delle lobby dei malati di cancro. Per carità, né con scuse né con precisazioni né, non si può sentire, Di Maio, la lobby dei malati di cancro si può sentire. Vincino, che c'hai? Il tuo amico migliore, tra l'altro, Di Maio. Cosa hai pensato quando l'hai letto? Ho pensato che hanno proprio, sono dei neofiti, no? Allora loro, che sono il nuovo partito conservatore, gli piacciono tutte, no? Fa la cosa, gli piacciono i lobbisti, gli piace quello, quell'altro, e nella foga, come dire, fanno una stupidaggine dopo l'altra, perché poi Di Maio è dalla stessa parte di Danna, come dire, politicamente parlando in un certo senso. Perché? No? Perché politici campani tutti e due, partito più conservatore, così. Assolutamente sì. Sono un po' come la nuova DC, dai, vuoi ferirli? Sono il nuovo, guarda, io l'ho definito su Radio Radicale il nuovo musica leggera per ceti medi. che la definizione che Fulvio Abbate aveva dato al PD di Veltroni, esattamente sono loro, no? Il 5 Stelle. Il nuovo musica leggera per certi mesi. Ecco qua. No. Non sono, siccome non hanno più niente di riformista, di rivoluzionario, di quello, no. Conservatori. Esattamente. Sì. Va bene. Allora vogliono conservare tutto, la Costituzione così com'è, la cosa così com'è, la legge elettorale così com'è, in modo che loro vanno al governo così com'è, tutto preciso così com'è. Tutto così com'è. Sono il partito del così com'è, bravo. Il partito del così com'è, va bene. Che è la cosa, forse, Silvia, è l'accusa più grave che si possa fare al Movimento 5 Stelle, loro che vogliono rompere, scassare, rinnovare, invece dice Vincino, ma quale rinnovare, proprio... Mantenere tutto così com'è. Ma sono ritornati pure i gladiatori al Colosseo. Sì, vabbè, i gladiatori. Come dire, è partito. È partito Vincino a sti collegamenti mentali che solo lui capisce. Il bello è questo: i gladiatori a Roma. Cara Silvia, aiutami te. Ma no. Benvenuti a gestire le amministrazioni. Adesso io non sono lì col fucile spianato a contare gli errori. Però io ho seguito Pizzarotti, che era davvero una brava, persona. Che se ne vuole andare? Anche, che se ne vuole molta andare. Simpatia. Insomma, io mi ricordo la festa, non ci sarà l'inceneritore, bene, abbiamo vinto, io ero circondata nelle dirette con le bandiere, no inceneritore. Dopo 6 mesi l'inceneritore ha funzionava, lui non ci ha potuto fare niente, è così. E quindi è inutile stare a farle alle pulci. Alla resa dei conti la politica è un compromesso, infatti fare quelli giusti. Pare che Pizzarotti, che ha scritto Beppe Grillo, pare proprio che oggi scrive il Corriere, se ne vuole andare. E pare che sia pronto già una sua, come dire, lista civica, un nuovo movimento, un nuovo partito, una nuova formazione politica. Caro Vincino, che c'è? Che c'hai? No, non andrà da nessuna parte, perché tutti quelli fuori dal partito così com'è non vanno da nessuna parte. Paviaco, tutti i 200, 500, 800 espulsi, mica non sono nulla, non contano nulla, come quelli che vanno fuori dal PD, come dire, cioè come chi va fuori Niente. Vabbè, però solo Alfano che è andato fuori. Alfano. Nulla, infatti, lo 0,2% che se ne va pure quel. No, ma infatti vorrei. Allora, da Vincino vorrei, perché è incredibile. Sì. Perché Vincino da 2 anni ha proprio nominato ossessivamente coloro che poi sono, guarda caso, i protagonisti di questa fase politica. Allora, Di Maio l'abbiamo sistemato. Alfano, in questo momento, che dice. Oggi sul Corriere, che noia dire che l'NCD va a scomparire, che noia, diventeremo più forti a settembre, più forti e temerari. Alfano, che c'è? Di chi è più forte? Del nulla praticamente, del nulla che erano e nulla sono. Ma è ministro dell'interno. Ma sì, c'hanno il ministro della salute. È il ministro degli interno per grazia divina, cioè perché così è stato graziato quando c'è stato il passaggio da quando Renzi ha acchiappato il potere, se l'è trovato già là, come dire, nella sedia occupata per comodità per la pigrizia di non cambiare. E là ha fatto l'errore più grave di Renzi, no, esattamente. Cioè l'ha lasciato lì per pigrizia di non cambiare. Ma non aveva un fiorentino abile a questa cosa qua, no? Ecco. Poi si è visto che, come dire, dai 200 errori nel codice appalto che hanno fatto, che ormai i fiorentini che sanno leggere, in grado di leggere e scrivere, non ce ne stanno più disponibili. Quindi non aveva un fiorentino pronto per aveva la poltrona. Un fiorentino pronto, se l'è trovato e via, è un disastro umano. Eccolo qua, guarda. Enorme. Guardalo qua, prima pagina del Foglio, il nuovo partito musica leggera per ceti medi, la taverna col fidanzato Tavernello. Ma quello, il fidanzato nel direttorio mette, cioè, no, ma è bravo, ma è il tuo fidanzato. E vabbè, insomma, che non si può fare. Vabbè. Dai, allora, abbiamo sistemato anche 5 Stelle, abbiamo sistemato Alfano, non so, chi mi resta? Parisi, ti piace Parisi? Nuovo? Stupendo Parisi. Guarda. Quello che rilancerà il centrodestra? Il nuovo partito moderno, se Parisi glielo fanno fare, Parisi è bravo, tecnologico, sì. Silvia Brasca, a Milano, è Parisi. Parisi, c'è un'espressione che lo definisce, che è un Graf de Rost. perché è tignosissimo. Il grasso de rosso, un grasso da rosso, sai, quelli. Ma è proprio il grasso, quello filamentoso. Sì, che è un grasso de rosso, ecco, perché lì insomma è bello tignoso. Però non so se Berlusconi questa mattina, svegliandosi prima di fare la riabilitazione, leggendo quella pagina, sarà così contento. Ma no, no, guarda, cosa che dici? è contento. Oggi c'è un vertice, sì, ad Arco, ne pare c'è che la, c'è la benedizione. C'è la benedizione, però non andrà a Parigi, ma pare che radunerà tutti i vari Brunetta, Gelmini, Romani. Mamma mia. Pensa che bel vertice, no? Imbuchiamoci anche noi. Pensate che bel vertice. Oggi venerdì, voi state andando, che ne so, a lavorare, poi pensate di andare a casa con i figli al lago, e invece Berlusconi avrà Gelmini, Romani, La Russa, Brunetta. No, la Russa è stata le sorelle d'Italia là, quelle. No, la Russa no. Poi chi c'è avrà? Toti. Tutti un bel venerdì ad Arco. Non lo so, ce ne sono parecchi in realtà, eh? E pare che ci sia questa idea, ma subito Brunetta che ha fiutato, caro Vincino, ha fiutato che c'è qualcosa che non va, ha detto l'OPA in politica non esiste. Parisi, ecco, sappia che ci vogliono tempi lunghissimi in politica, eh? Intanto sarebbe fare le scarpe a sala, quindi... assolutamente no. Questo no, in politica i tempi sono, a volte sono brevissimi, non è, come insegna Renzi, no? Ma come anche Berlusconi ha insegnato. Berlusconi è entrato in politica da zero e ha acchiappato il 30 così in tre mesi. E non so quante centinaia di milioni di dollari. Non mi hai detto ancora niente di Renzi, caro Vincino. È un po' low profile Renzi, perché in questo... come dire, ormai è quasi non percepibile in un certo senso. Tu allora, hai detto abbiamo, che abbiamo, cadeva ad agosto, esatto, forse a luglio. Lui ancora non è finito. sì. No, ma io gli voglio bene, ragazzo, non è che assolutamente, no? Io dispiaciuto guardo e analizzo e vedo i dati e non è che sono là che mi raccontano, io non posso fare niente, cerco di modificare, ma non... Cioè è bollito, lo vedi bollito. Totale, proprio. Totale. Anche Salvini la pensa totale. Così, la pensi come Salvini, ma... oggi Salvini... No, anche Salvini è bollito totale. anche Salvini, vabbè, ci sarà qualcuno che salva Vincino? Adesso ci pensi, c'è il traffico, poi mi dici uno che salvi, ma uno, e non vale dire Giachetti che è il migliore, più onesto, dentro il raccordo anulare, che tanto Giachetti ha perso a Roma. Uno che salvi, tra poco, uno a cui aggrapparsi, tra poco. Massima di Confucio, ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il vostro. Tanti auguri per Aurora, Milan. Ma quante ferie fai? Lavoro ogni tanto. Va bene che si sveglia alle 5, ma se fai 2 mesi di ferie, poi recuperi. Ma chi se ne frega, disse il mago alla strega. Milan Maria, sono una creatura fiorentina. A parte che con le ferie mi ha fatto due fande, madonna, buona, non ti sopporto più. Ma stamattina mi è arrivata la bolletta della luce. Contro la spesa di 29 euro e rotti, mi è arrivato il canone RAI, 70 euro. La luce arriva 6 volte l'anno, ma se te metti 18 euro ogni bolletta della luce, il contribuente, e non se ne accorge, e non ci vuole le pompe per fare queste cose qui. Diglielo ai tuoi interlocutori quotidiani. Alessandro, altro che Pokémone, qua Game of Pokiskei. Sì, tra l'altro Vincino è uno, sono sicuro, che gioca tutti i giorni ai Pokémon Go. Sai cosa sono i Pokémon? Io non lo so che cosa sono, l'ho anche disegnato, ma non, io da ieri non riesco manco più a entrare in internet, guarda, altro che è successo? Tutto, ma non lo so, sono pieno di virus da tutti i lati. Lo so, perché guardi dei siti un po' così, insomma. Ma una volta per sbaglio uno entra là e via, t'acchiappano, mamma mia. No. Per sbaglio. È un disastro. A sua insaputa, ha guardato un sito, è entrato in un sito a sua insaputa, di quelli che insomma lasciano un po' il segno. Va bene. Allora hai pensato a chi possiamo salvare? Guarda, ti dico una cosa che ti rimarrà così a bocca aperta. Ieri in televisione a un certo punto ho sentito Davigo ha detto, i magistrati sono inadatti e incapaci a fare politica, non devono entrare in politica, tu lo voteresti non subito. La sanno fare. Lo voteresti subito. E io sono rimasto così, che io non lo so, era per me uno proprio di quelli terribili, sono rimasto così a guardare questo Davigo, che diceva lucidamente una grande verità. Ti sei innamorato di Davigo? Ma mi è piaciuta questa cosa perché era lucida, dice... sono negati totalmente per la politica, per cui tutti i magistrati, tu sindaci... Ho capito, ma io ti ho chiesto un politico a cui aggrapparsi, dice adesso è chiaro che questo è il suo ingresso in politica, chiaramente. Abbiamo assistito a questo momento storico. È l'annuncio. Va bene, in tutto questo, cara Silvia Brasca, tu che sei in Francia, guarda, abbiamo un po' il respiro internazionale, sono anche i giorni di Donald Trump, dai, non facciamo finta che tutto il mondo non stia guardando anche con una certa preoccupazione alcune a Donald Trump. Donald Trump, per esempio, gli hanno fatto una domanda di politica estera, gli hanno detto, ma non so, se la Russia invade l'Estonia, un nostro alleato, gli ha chiesto il New York Times, che facciamo? Bisogna difendere l'Estonia? E Trump ha detto, dipende, se l'Estonia ha pagato tutto quello che c'era da pagare nei nostri confronti, sì. Cioè, sei a posto. Quindi i trattati NATO, il mutuo soccorso, l'aiuto agli alleati, ma chi se ne frega? Cioè, se l'Estonia ha pagato, proprio dal punto di vista economico, no? Il sostegno che noi diamo, sei a posto, se ha pagato il mutuo, insomma, se l'Estonia ha pagato il mutuo, la salviamo, e se no, insomma... Ti preoccupa? Io spero nello staff, io spero sempre nello staff, insomma, i presidenti americani non sono da soli, tanto speriamo che non venga eletto, non mi sembra proprio fit, però c'è una cosa democratica, vediamo cosa. E speriamo nello staff, al momento non mi sembra che abbia dei maestri intorno, deve studiare, i maestri intorno studiare. Non sono all'altezza. Capito, ma mancano due mesi, potrebbe essere presidente degli Stati Uniti d'America. Non è un secchione, quello, insomma, intanto abbiamo visto che Melania, insomma, è stata promossa copiando dalla secchiona che era Michelle, quindi ecco, già solo un inciampo del genere, però anche lì incrociamo le dita, ma per un'inadeguatezza al di là del personaggio, insomma, mi sembra che non abbia intorno un grande staff, però ha intorno ecco quell'America lì, tra l'altro oggi c'erano tutte le belle facce, Repubblica ha pubblicato quattro pagine di facce, io cercavo alla fine ho trovato un nero, ho detto eccolo qua un nero che vota Trump, vicino l'ho trovato, tutti bianchi erano, non c'è un ispanico, ho trovato un nero, ma soprattutto anche quel gioco di far vedere i mostri, cioè alla fine poi dopo questi votano, non mi piace fare l'America di quello, l'ho visto sui giornali America, e vedi quello con la bandana, queste cose, però questi votano insomma, l'intento di quelle foto non era limpido. Però Vincino, chi ha intorno Donald Trump, vediamo se lo sai, chi ha a fianco? Questa è una domanda a bocchetto, Melania. La storia di Melania secondo me è di una furbizia enorme, cioè con questa scusa della finta gaffe praticamente, lei si è accappato pure una parte del pubblico dei neri, dei cosi, citando Michelle e via. Via, copia Michelle secondo me è un trucchetto questo. Ma qua, c'è un giudizio, attenzione. Reagan era totalmente imbecille, totale, un attore che non sa fare niente, reazionario, è stato uno dei migliori presidenti degli Stati Uniti d'America. Cioè, non guardiamo col nostro metro, stiamo tranquilli. Però abbiamo un giudizio definitivo, un giudizio tombale, un giudizio dopo il quale non c'è più nulla da aggiungere, e cioè Flavio Briatore. Attenzione, Flavio Briatore che... Cosa ridi, Silvia Brasca? Flavio Briatore che dà il suo giudizio su Melania Trump. Melania è molto intelligente, molto sweet, molto dolce, è una... è una persona molto vicina a Donald, per cui io credo che sia molto bella, molto bella. E sicuramente sarà la più bella Fraselli. Su molto bella ha avuto anche proprio tre volte voleva, era anche un po' come dire molto bella, molto bella, molto bella, come lo fai bene, molto bella, molto bella, briatore, è molto sweet, molto sweet, ti piace sweet, Vincino, sai cosa vuol dire sweet? Speriamo che Briatore non entri in politica, qua in... entrano un po' tutte. Davigo Briatore potrebbe essere un bel faccia a faccia, è il nuovo ballottaggio. Davigo Briatore, Davigo Briatore. Un bel ballottaggio, molto sweet, capisci Vincino, è molto sweet, dolce, sweet. Molto, molto dolce, bella, è bella, molto bella, molto bella. E va bene Briatore, e dopo che c'è il giudizio su Briatore che dobbiamo aggiungere, niente di più, caro Vincino, niente di più. Va bene, ci vuoi dire qualcosa dei centurioni che ti danno fastidio? I centurioni, no, assolutamente, io le adoro i centurioni. Non ti è dà fastidio la Raggi? No, assolutamente no. Come dire, si sta comportando bene? Vedremo, sì. Quando tra qualche mese inizierà a fare la sindaca, oltre a, come dire, cioè vedremo, no, vedremo. Siamo qua, no, assolutamente. Si sta comportando bene? Come dire, ancora siamo all'inizio, cioè manco all'inizio, siamo mentre l'Appendino è già avanti, ha fatto 300 cose, sì, no, sì. Ha cambiato il vitto. Vuole la mensa vegana. Il ha chiuso tutti i wifi perché ha già fatto. Sì, no. Vuole, dice che TAV ci sono gravi problemi perché invece la Raggi niente, però. La Raggi ancora va bene. Io però volevo salutarvi con quest'ultima notizia che ho trovato sul giornale. Attenzione, caro Vincino, attenzione, cara Silvia Brasca, sì. La formica e il piccione sono più sapiens di noi. Questo almeno sanciscono alcuni scienziati. Anche elefanti, corvi, delfini, scimpanzé e perfino le termiti sono più sapiens di Vincino, per dire. Non avevo mai avuto dubbi, però andrò a leggere. Però ora anche gli etologi hanno sancito questa grande verità. Sei meno sapiens di una termite. Qual è il singolare di meno sapiens di tutti, totalmente sì. Insapiens, perché confesso sono totalmente insapiens, incapace di intendere, so solo disegnare. Va bene, allora io vi devo salutare, vi mando un abbraccio, cara Silvia Brasca, caro Vincino, ci troviamo settimana prossima, se volete la mia ultima settimana qui a 24 mattino, che devo fare, poi me ne vado in vacanza. Ciao bello sì. molto ciao. Bella Melania, ciao, molto bello. Ciao. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Allora, cari ascoltatori, dai che è venerdì, sono le 7:18 minuti e siamo qui pronti a leggere i giornali. Questa, infatti, come sapete, è la rassegna stampa di 24 mattino e tra l'altro siamo nel giorno in cui si chiude la 168esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Forza allora, dai, andiamo! Le mie lunedì, le venerdì. Alle 7:19 minuti di questo venerdì 22 luglio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore su Draghi, aiuti alle banche possibili, così anche il Corriere della Sera, banche, l'apertura di Draghi. Per Repubblica l'apertura è questa, Unioni, cade l'ultima barriera, le prime entro Ferragosto, il via libera del Consiglio di Stato sulle unioni civili. Per la stampa, Trump, mi prenderò l'America, il tycoon lancia il suo programma dopo l'investitura del Partito Repubblicano. Per Libero invece un'altra investitura, più modesta dal punto di vista dell'importanza mondiale, ecco il successore di Silvio Berlusconi e Stefano Parisi, c'è un ritratto in prima pagina. Per il Messaggero torniamo sulle banche, sia gli aiuti di Stato, sono le parole di Mario Draghi. Mentre c'è questa apertura scioccante, con tanto gli articoli di Fausto Biloslavo molto molto duro, anche solo da guardare nelle foto, oltre che da leggere, il giornale sgozzano i bambini nel nome di Allah. Barbarie in Siria è il resoconto anche fotografico di come in Siria sia stato decapitato un bambino di 12 anni perché considerato, diciamo, alleato al nemico. Ecco, mettiamola così. Referendum, basta barbarie, questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Pietro Grasso lo dice, è il presidente del Senato, non è mica il giudizio universale, dopo la vita continua, e su questo non ci sono dubbi. Allora, voglio partire da che cosa? Quest'articolo che ho trovato su Repubblica, è Carlo Bonini che realizza questo scoop ed è un qualcosa che coinvolge i vertici della Guardia di Finanza, nel più alto vertice, vale a dire nel comandante della Guardia di Finanza. Finanza gli hotel pagati al generale, un omaggio del socio di Verdini. Nel passato del comandante generale della Guardia di Finanza, generale Giorgio Toschi, c'è una scatola di cartone che dice qualcosa dell'uomo, quanto basta dell'ufficiale, molto della sua rete di rapporti che ne avrebbe sconsigliato la nomina il 29 aprile scorso e che forse, e al contrario a questo punto, la spiega. In quella scatola, scrive Bonini su Repubblica, scatola custodita nell'ufficio corpi di reato del Tribunale di Firenze, ci sono due fatture per altrettanti soggiorni alberghieri. Soggiorni del luglio e del settembre 2008 che il generale non ha mai saldato perché qualcun altro lo faceva per lui. Un costruttore e un corruttore che di nome fa Riccardo Fusi, pratese che in quegli anni a Firenze, dove Toschi era comandante generale regionale, scusate, contava. Perché Fusi era tasca e socio occulto di Denis Verdini, perché grande elemosiniere toscano e perno del sistema trasversale che presiedeva gli assetti politici e imprenditoriali lungo l'Arno, almeno fino a quando le inchieste giudiziarie sui grandi appalti del 2010 non lo hanno travolto insieme al suo gruppo, schiantato sotto il peso dei debiti e per il cui crack Fusi risponde ora di bancarotta fraudolenta. Insomma, questa è la storia di Repubblica in prima pagina, poi continua a pagina 15, di due vacanze, secondo le accuse, pagate da Riccardo Fusi, imprenditore amico e vicino a Verdini, all'attuale comandante generale della Guardia di Finanza Toschi. Camere con extra, gli alberghi pagati dal socio di Verdini al capo della finanza. In questa scatola ci sono almeno due fatture, racconta Repubblica, e di queste due vacanze al Una Hotel, catena alberghiera di cui Fusi è proprietario. E si racconta di tutta questa vicenda, spuntano prove della sua rete di relazioni con personaggi come Riccardo Fusi, regista del sistema Grandi Appalti, poi condannato per corruzione e bancarotta fraudolenta. E ricordate che anche la nomina del comandante generale della Guardia di Finanza aveva creato qualche polemica. A proposito però di costi, qui non si tratta di vacanze, ma si tratta di soldi che sono stati trovati in contante a casa di un funzionario di Palazzo Chigi, e la vicenda Ricucci che ancora tiene banco sui giornali. Ricucci che è stato arrestato, è finito in carcere con l'accusa di false fatturazioni. Racconta il Corriere la notte in bianco di Ricucci: ho scritto appunti per difendermi, questo dice in carcere. Ma soprattutto c'è un aspetto, sempre da Repubblica, che riguarda uno dei giudici coinvolti nella vicenda Ricucci, ed è il giudice del Consiglio di Stato Nicola Russo, che fa sapere Repubblica è anche accusato di sesso con minori. Questo almeno è il titolo di pagina 22. Non solo donne come mazzette per pilotare una sentenza. Per Nicola Russo, magistrato del Consiglio di Stato accusato di aver condizionato un verdetto a favore di Ricucci, si apre un nuovo fronte di indagine. Il giudice accusato in un'altra inchiesta di prostituzione minorile. Russo avrebbe pagato adolescenti straniere in cambio di sesso. e il sostituto procuratore che si occupa di questa vicenda è Pantaleo Polifemo, PM che ha appena chiuso le indagini nei confronti dell'uomo. Insomma, un debole per le donne, quello di Russo, che sta creando diversi guai al magistrato. I fari della procura infatti sono puntati su di lui. E si racconta dunque di questa vicenda anche con dettagli discretamente torbidi, questo almeno su Repubblica. Tra l'altro, riguardo a questa vicenda, o meglio parallela, Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 17 del Corriere della Sera, sotto il titolo "Tangenti in cassette di sicurezza e a casa le sentenze da ricopiare". Che cosa è stato trovato a casa del funzionario di Palazzo Chigi Renato Mazzocchi, oltre ai contanti? Sentenza di accoglimento del ricorso di Silvio Berlusconi contro il provvedimento di Banca Italia che imponeva la cessione delle quote di Mediolanum. È uno dei documenti sequestrati per ordine dei magistrati a casa del funzionario di Palazzo Chigi Renato Mazzocchi, indagato per riciclaggio e corruzione. Tanto basta per capire quale direzione abbia imboccato l'inchiesta sulla rete di faccendieri e politici sospettati di avere aggiustato numerosi processi, ma anche di aver pilotato appalti, assunzioni, nomine. Altre mazzette sono state trovate nella cassaforte di uno degli imprenditori arrestati il 4 luglio scorso durante un blitz del nucleo valutario della Guardia di Finanza. Secondo il giudice sono fondi neri accantonati per pagare le tangenti necessarie a ottenere le proroghe di un appalto dell'INPS. E Ale, questi sono gli spaccati che trovate sui giornali, Viene da dire allegria. I 5 Stelle sono un po' nel mirino. Tra poco magari vedremo la questione della lobby dei malati di cancro che ha suscitato polemiche. Soprattutto però c'è anche qualche polemica per quel che riguarda la Appendino, la sindaca di Torino, così scrive Repubblica, il sindaco, insomma. Il sindaco di Torino, taglio il wifi, fa male, poi fa un po' retromarcia. Il sindaco Chiara Appendino, racconta Gabriele Guccione su Repubblica, vorrebbe ridurre il tempo e la quantità delle emissioni degli impianti wifi nelle scuole di Torino, in modo, dice lei, che sia garantita la connettività per lo stretto necessario. Lo scrive a pagina 23 del proprio programma di governo, che tra altre cose prevede anche la promozione della dieta vegetariana e vegana, e questo è anche un altro punto che ha suscitato polemiche, specificando però di voler limitare l'emissione di onde, per quel che riguarda il wifi, in ossequio al principio di precauzione, in attesa di sviluppi degli studi medico-scientifici in merito. Insomma, l'inquinamento elettromagnetico fa male, questa è la tesi sottostante a questa vicenda. Ci sono state le polemiche, dopo una mattina di aspre critiche, il sindaco ha precisato con un tweet: si tratta di eliminare le emissioni superflue. Non ho detto che il wifi sia nocivo, ma si può pensare, come buona pratica, quella di disattivarlo quando non è in uso per le lezioni. Comunque, questa polemica c'è sui giornali. È una polemica anche, secondo Libero, quello che vince il premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più zare della giornata. Ed eccolo qui, a proposito di Mani sul Volante, visto che si tratta di ATAC e dunque di autobus, pagina 15 di Libero, i bus sono un disastro, ma l'ATAC spende 4 milioni per pranzi e caffè. Questa è la cifra, 4 milioni di euro di servizio per la mensa e il bar aziendale, con perquisizioni da parte della Guardia di Finanza e indagine della Procura di Roma per quella che sembra una cifra un po' esorbitante. La Procura indaga sugli sprechi dell'ATAC. Spende 4 milioni per pranzi e caffè. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta. Tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. Alessandro Milan, il Sancho Panza dell'informazione. E allora, cari ascoltatori, evviva, mandate le vostre sigle via WhatsApp al 349-238-6666. Devo aprire un'ampia pagina sulle questioni internazionali, perché oggi sono molto presenti sui giornali, poi sono molto più interessanti il dibattito un po' sterile e consueto della politica italiana con le solite polemicucce. Allora, intanto da cosa iniziamo? Da Rio de Janeiro, le Olimpiadi. Perché l'allarme proviene dal Brasile, è un allarme molto concreto e inquietante. L'ombra dell'ISIS su Rio, arrestati 10 per terrorismo. Certo, l'aggiunta della polizia è sono solo dilettanti. Leggo dall'articolo di Rocco Cotroneo a pagina 4 del Corriere della Sera. Assoluti dilettanti e impreparati, oppure pronti ad agire per le Olimpiadi. Le parole del ministro della giustizia brasiliano non chiariscono se davvero si sia arrivati a scongiurare un massacro a Rio de Janeiro. Ci sono i fatti. 10 uomini arrestati, sparsi per tutto il Brasile. È la prima traccia di ISIS in America Latina, spunta a 15 giorni dall'apertura dei giochi. Non si conoscono personalmente tra loro i fermati, vivono a migliaia di chilometri di distanza, tranne due coppie. Facevano parte di gruppi di chat su WhatsApp, su Telegram. Per settimane il gruppetto si era limitato a discutere, esaltare le azioni terroristiche nel mondo, Parigi, Orlando, Nizza. Poi, dice il ministro, dall'apologia si è passati ad atti preparatori. Si parla di supposta cellula terroristica, perché i 10 si sarebbero affiliati o battezzati all'ISIS. È tutto un pochino confuso. Gli arresti ci sono stati, il timore ovviamente se apre le Olimpiadi è concreto, è inevitabilmente. Sta di fatto che questo succede in Brasile, mentre a Nizza, qui purtroppo lo abbiamo visto più concreta la vicenda, si parla ora di una rete di complici e di attentato preparato da mesi, quindi dal pazzo solitario che si è radicalizzato in 15 giorni, ora si pensa almeno a una rete di 8 persone che potrebbero avere pianificato da mesi l'attentato che poi ha portato Mohamed Boulel a compimento con il camion. Tra l'altro, in quelle concitate fasi, ricordate, c'è un'immagine. L'immagine, e abbiamo raccontato tutti una parziale verità, quando, ricordate, c'è uno scooter, un uomo in scooter che si avvicina a quel camionista, quell'uomo sul camion, quel terrorista sul camion. L'uomo in scooter si avvicina, poi, l'ho detto anch'io in diretta perché così era stato definito, viene abbattuto con una pistola. Non è andata così. Quell'uomo, ora definito da tutti un eroe, in scooter, è vivo. E lo ha raggiunto un giornale di Nizza che lo ha intervistato. L'intervista oggi è riproposta dal Corriere della Sera. Quell'uomo, eccolo qua, si chiama Frank, 50 anni, impiegato all'aeroporto di città. Cosa aveva previsto di fare la sera del 14 luglio? Racconta, era lì con la moglie, voleva mangiare un gelato sul viale principale. Eravamo in mezzo alla strada, andava a 60 km all'ora, non ho avuto il tempo di vedere lo specchietto retrovisore, il camion mi ha sorpassato, correva sul marciapiede, davanti agli occhi l'immagine dei corpi che volano ovunque. Ho subito capito, era orribile. Per raggiungere il camion bisognava fare lo slalom tra vivi e morti, andavo a tutta velocità, frenavo solo sulle ruote posteriori perché avevo il polso bloccato. Mi son posto la domanda, cosa puoi fare col tuo piccolo scooter? E allora l'ho scagliato contro il camion. Ho continuato a correre dietro, ricordo di essere caduto, mi sono rialzato e sono arrivato fino a lui, ero sul predellino a livello del finestrino aperto, l'ho colpito, lo colpivo con pugni al volto con tutte le mie forze. Lui non diceva nulla, ma ha cercato di spararle, sì, ma la pistola all'inizio non funzionava, mirava, premeva il grilletto, ma non funzionava. E perché non ha mollato la presa? Ero lucido e pronto a morire per fermarlo e continuavo a colpirlo. E poi la pistola si è messa a funzionare, ha sparato un primo colpo in aria, poi contro di me. Alla fine è arrivata la polizia, che ovviamente mi ha anche fermato, mi sono messo a pancia in giù, la testa girata su un lato, sparavano in tutte le direzioni. La polizia pensava all'inizio che fossi anch'io un terrorista, poi quando è finito tutto ho vomitato. Ma appena prima ho avuto il tempo di sapere che mio figlio si trovava nella via e che un altro era Khan e che mia moglie stava bene. E qui c'è la foto di questo Frank intervistato da un quotidiano di Nizza e riproposto dal Corriere della Sera. Mi sono lanciato contro l'attentatore, l'ho preso a pugni, incassava e taceva. Questa è la storia ancora racconti di Nizza. Allarghiamoci un po' più a est e andiamo in Turchia. In Turchia la stretta della Turchia prevede la sospensione della Convenzione per i diritti umani. Questa è l'ultima novità più importante da ieri che proviene dalla Turchia. Come racconta Repubblica, nessuna pietà per i vinti. Marco Ansaldo, pagina 10. Pensate che il sindaco di Istanbul, Kadir Topbaş, ha proposto questo, un cimitero per i traditori, dove tutti i passanti potranno maledire chi vi è sepolto. Ecco, questo è il clima. Non è ovviamente, racconta Repubblica, l'unica misura draconiana decisa ieri fra Consiglio per la Sicurezza Nazionale e Parlamento. C'è anche un tribunale speciale per i processi ai golpisti, un carcere di massima sicurezza destinato a ospitare i condannati e l'approvazione dell'annunciato stato di emergenza per 3 mesi in cui verrà sospesa, durante i quali verrà sospesa la Convenzione Europea per i diritti umani. Come in Francia, si affretta a dire il vice premier Numan Kurtulmus. Forse solo per 45 giorni rivedremo la struttura organizzativa dell'intelligence, le relazioni tra potere civile e militare. Ecco, questo è quello che proviene dalla Turchia. La situazione è, come potete immaginare, in evoluzione, ma molto molto complicata. Ci vogliamo spostare invece più a ovest? A ovest troviamo Donald Trump. Negli Stati Uniti, Donald Trump che incassa la candidatura ufficiale alla Casa Bianca per quel che riguarda il Partito Repubblicano. Certo, non lo appoggia Ted Cruz, il suo grande rivale, uno dei suoi grandi rivali. Gran rifiuto di Ted Cruz, che esce tra i fischi dalla convention di Cleveland, così racconta il Corriere della Sera. Pur congratulandosi, ha negato l'appoggio. La replica di Donald Trump: è uno che ha perso, il partito è con me. Però Donald Trump è nel mirino per un'intervista rilasciata al New York Times, nella quale ha dato sfoggio di non si capisce bene se la sua scarsa preparazione in politica estera o se invece è una preparazione precisa, che mira dunque a un qualcosa di preciso. Raccontano tutto Mario Platero e Marco Valsania in prima pagina e poi continua a pagina 16 del Sole 24 Ore. Raccontano, nonostante tutto, nonostante il tradimento di Ted Cruz, nonostante la gaffa dell'ultima ora con l'Alleanza Atlantica, e tra poco vedremo di che si tratta, il trionfo c'è stato. Urla, acclamazioni, slogan per Donald Trump, per il suo messaggio semplice ma sempre diretto alla pancia del paese, ieri notte. Ha fatto discutere il delegato del Texas, Adolfo Telles, capo del gruppo di El Paso, che ha detto siamo delusi per quello che ha fatto, cioè Ted Cruz, ha prevalso il suo narcisismo. Ma poi eccola qua, la gaffa. Donald Trump, nonostante abbia avuto l'acclamazione del partito repubblicano, ci ha messo del suo per scatenare nuove polemiche. In un'intervista al New York Times è sembrato che mettesse in dubbio l'articolo 5 della NATO, secondo cui l'attacco a un paese è un attacco contro tutta l'alleanza. La domanda del giornalista del New York Times era questa: qualora la Russia di Putin invadesse un paese baltico, cosa farà la sua Casa Bianca? Trump ha risposto così: interverremo, ma solo se avranno rispettato gli impegni finanziari che ciascun membro deve dedicare alla difesa e alla NATO. Finora, come scrive Platero insieme a Valsania, nessun leader aveva mai sollevato eccezioni, ma la linea politica è in sintonia con l'idea di Trump dell'America, un paese che deve essere rispettato e non sfruttato. Insomma, come titola anche il Messaggero, Trump scarica i paesi NATO. Non li difenderei dai russi. O meglio, li difenderei solo se hanno saldato, come dire, il mutuo, ecco, diciamola così, del pagamento delle spese. E questo è un po' ha messo in subbuglio tutti coloro che guardano a Trump come politica estera. Per quel che riguarda la Turchia, ha detto gli Stati Uniti non facciano pressioni. Secondo il Corriere della Sera ha avuto parole di elogio anche per Kim Jong-un in Corea. Vabbè, fermiamoci qui, insomma, d'altronde il buon Mauro Meazza, secondo me, è grande cultore di politica estera, soprattutto esegeta della politica estera di Donald Trump, ci può spiegare nel perfile per segno quali sono i prossimi passi. Caro Mauro, a te la parola. Caro Alessandro, grazie di questo lodevole introduzione. Stai prendendo tempo. Sì, il candidato è impreparato. Mi sto documentando in questo istante su questo caffè oramai portata di rilievo internazionale, che effettivamente suscita una certa qual preoccupazione vedendolo da qui, però come dire, se ne dovremmo occuparcene per almeno per qualche mese. Credo di sì. Forse per qualche anno, chi lo sa. Ecco, infatti il dubbio era quello. Va bene, no, ti voglio dire, ci occuperemo per qualche mese anche di pensioni, tra l'altro, perché come leggi sul Sole 24 Ore di oggi c'è questo piano che sta prendendo forma, dovrebbe poi confluire nella legge di stabilità. Insomma, ci servirebbe 1,5 miliardi. Hai qualcosa da mettere? Io, guarda, un paio di euro. Adesso che si avvicina alle vacanze, farei 1,50 euro. È veramente micragnoso, guarda. C'è da dare 1,5 miliardi, ma per cose anche di cui abbiamo parlato, l'Ape, la Rita, ma adesso anche... Ma io do 1,5 anch'io, di euro. 1,5 però euro, ci mancherebbe quel miliardo. Vabbè, in ogni caso servirebbe appunto avere un po' di liquidità, ne parliamo per oggi diffusamente. A proposito di fondi pubblici, sappi che è addirittura d'arrivo, si concluderà settimana prossima, quindi tu potrai raccontarlo come si deve ai nostri ascoltatori, la nuova legge sul bilancio, cioè le nuove regole che disciplineranno le manovre finanziarie dal 2017 in avanti. E tra l'altro ci sarà la spending review permanente, un meccanismo praticamente di sorveglianza quasi automatica dei conti. Quindi saremo qui a raccontarlo, tu più che altro sarai qui settimana prossima a raccontare l'approvazione. Così come procede spedito sempre per la prossima settimana, stai segnando nella tua agenda tutte le cose che devi poi segnalare, ecco, bravo. Il decreto legge sugli enti locali, dove ci sono tante cosucce, tra cui l'assunzione di personale che viene circoscritto da alcuni settori, ti spieghiamo tutto nelle pagine Norme e Tributi, e anche la cartella esattoriale se ti beccano a viaggiare sull'autobus senza biglietto. Quindi leggi anche in metropolitana? Beh, penso proprio di sì, non credo che ci sia una distinzione se il trasporto è su gomma o su rotaia. In ogni caso puoi vedere nella prima pagina di Norme e Tributi il dettaglio dei contenuti di questo decreto legge, che poi settimana prossima racconterai nella sua conclusione. Ricordati che oggi è il 22. Sì. Bravo, devi inviare il modello 730. È il termine per l'invio del 730. Già che sei lì su Norme e Tributi, te ne puoi ricordare e fare un'ultima verifica. Poi ti volevo anche segnalare, così, en passant, che ieri Draghi ha avuto parole abbastanza così di sostegno sulle banche e anche sulla possibilità di aiuti di Stato. Quindi vedremo se ad esempio per Montepaschi, ne parliamo nelle primissime pagine Sole 24 Ore, questo sarà un buon viatico. In conclusione, augurandoti poi un buon proseguimento per la prossima settimana, come sai io mi devo aspettare per qualche giorno. Ma in ferie, vi rendete conto? Caro direttore del personale, Mauro Meazza ci sta dicendo che va in ferie. Ebbene sì, anche io come Alessandro Milan, ma meno di Alessandro Milan, vado in ferie. Meno secondo me di Alessandro Milan. Ma poi su questo ci confronteremo nell'ufficio del direttore del personale. Vabbè. Ti voglio segnalare come ultimo titolo. Sì. Anzi, due cose. L'una è domani il previsto sciopero del personale degli aeroporti è stato sospeso. Quindi peccato per le tue ferie, peccato. Lo so che questo ti sarebbe dispiaciuto, infatti l'ho detto apposta. Ma soprattutto, se tu vai a pagina 11 del Sole 24 Ore di oggi, vedrai che si parla di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bergamo, Milano Linate, insomma tutta una serie di aeroporti nei quali, scriviamo già nel nostro titolo, c'è la ripresa del Traffico! Alessandro Milan, il Melania Trump dell'informazione! Il Melania Trump, evviva! Allora, la politica italiana, sì, dai, c'è, soprattutto è un uomo che si impone, Stefano Parisi, questo dai giornali di ieri, pare essere colui che deve rilanciare il centrodestra, il manager pronto a rifare Forza Italia, che però, fa sapere il Corriere, non prenderà parte oggi al vertice previsto ad Arcore con Silvio Berlusconi e i leader del partito, Gelmini, Bernini, Toti, Matteoli, i consiglieri di Berlusconi, Alfredo Messina, Valentino Valentini, Nicolò Ghedini, saranno tutti lì, Brunetta, Romani, insomma ci saranno tutti ad Arcore per parlare di come rilanciare il centrodestra. E l'uomo visto come colui che deve farlo è Stefano Parisi. Ovviamente le interviste, le reazioni, Renato Brunetta intervistato da Tommaso Labate sul Corriere della Sera dice la politica è come un grande amore, ha bisogno di tempi lunghi, lunghissimi, non esiste l'opa in politica, cioè scalare un partito così in poco tempo. Però ora dobbiamo concentrare tutte le energie in questo momento sulla battaglia per la liberazione dal renzismo, così dice Brunetta, che quindi è un po' scettico su Parisi, pare molto più scettico Salvini. Intervistato da Tommaso Ciriaco su Repubblica, dice Salvini, Parisi è un modello perdente, non ci stiamo, questa cosa del leader è stucchevole, sempre a parlare dei nomi, invece bisognerebbe occuparsi delle cose da fare. Parisi cosa pensa della Turchia in Europa, che per me è una follia, e della moneta unica, che è totalmente sbagliata? Insomma, Salvini la pone più sul programma. Io dirò a Ferragosto, a Ponte di Legno, cosa penso del futuro dell'Europa e sarò chiaro, Matteo Salvini. Per la verità, rilascio anche un'intervista alla Stampa, Salvini un pochino più sfumata, non è così duro, pronti ad ascoltare i programmi. Vabbè, la vicenda Parisi in primo piano. Dall'altra parte Alfano fa un'intervista al Corriere della Sera, dice altro che noi stiamo implodendo, che noia questi discorsi, è dall'inizio che abbiamo addosso il pronostico sulla nostra fine, ma a settembre rilanceremo, e invita Berlusconi a lasciare Salvini, questo Alfano, Berlusconi lasci Salvini, anche questa non è una grande novità. Poi c'è il 5 Stelle. Il vertice con Beppe Grillo che vuole fare un passo di lato, o meglio un passo proprio indietro totale. Ilario Lombardo lo racconta, pagina 8 della Stampa. Grillo non più garante per evitare i risarcimenti. Il direttorio a Genova per discutere di simbolo, di regolamento. Il capitolo più delicato è proprio quello delle epurazioni. Non è sicuro che le nuove regole avranno valore retroattivo sulle passate espulsioni. Grillo lo sa bene, ha intuito le potenziali conseguenze, soprattutto economiche, con centinaia di espulsi con cui fare i conti, che potrebbero chiedere dei risarcimenti. E neanche a lui sarà sfuggita la voce di parlamentari e attivisti pronti a chiedere i danni. E quindi il senso del suo ragionamento è questo: ragazzi, sono io che ci vado di mezzo, a me chiederanno i risarcimenti. E siccome, scrive la Stampa, il comico che ha già speso tanto in soldi e sforzi personali per il movimento non vuole rimetterci più di tasca propria, ecco perché ha chiesto una revisione del proprio ruolo di leader. Oggi lui è garante delle regole del movimento, presidente dell'associazione da cui origina il Movimento 5 Stelle, registrata davanti a un notaio di Cogoleto, ma vuole cambiare questa situazione. In tutto questo c'è l'affair Pizzarotti, che tiene ancora banco. Secondo i giornali è sempre più certo che Pizzarotti, che ha chiesto un out-out a Grillo, cioè o dentro o fuori, voglia abbandonare il movimento. Lo racconta anche oggi Alessandro Trocino sul Corriere della Sera a pagina 15. E vuole lasciare il movimento e fondare una lista civica. In tutto questo c'è la polemica, la bufera che è durata, vabbè, una mezza giornata sulle parole di Luigi Di Maio, che ha parlato di lobby. In un lungo post ha parlato anche di lobby dei malati di cancro. Poi ha dovuto precisare, si è dovuto scusare, ma questo ha suscitato ovviamente un mare di polemiche. Io dico solo che l'espressione veramente stona, non si può sentire, e qui la politica non c'entra nulla, c'entrano solo le vite di milioni di persone, indipendentemente dall'atteggiamento con cui è stata affrontata la questione. Tra l'altro, lui parlava di questo incontro che ha fatto con responsabili di alcune lobby, e noi avremo ospite dopo le 9 colui che ha organizzato questo incontro per conto di una società che ha incontrato Di Maio. Certo, poi dopo è subentrata questa polemica sulla lobby dei malati di cancro, che ha superato un po' la questione delle lobby, che è una questione un po' più seria rispetto a questo scivolone di Luigi Di Maio. Che dire, ci sono pagine, molte pagine sui migranti. Sono un po' in conclusione, ve le segnalo solamente e soprattutto un'inchiesta, un reportage di Repubblica di Piero Colaprico, che è entrato nella base militare di Augusta, dove un gruppo di medici sta tentando di ricostruire l'identità di 700 persone rimaste intrappolate per un anno in un barcone che è stato poi riportato su dal fondale del Mediterraneo. Questa la trovate su Repubblica. La trovate anche un articolo sulla legge per la legalizzazione delle droghe leggere, lo faccio vedere anche in diretta su Facebook, sulla mia pagina Facebook pubblica, non quella privata, ma pubblica, siamo in diretta in questo momento, video. Eccola qua, la cannabis libera va in fumo, c'è un diluvio di emendamenti, circa 1700 emendamenti, e dunque si doveva iniziare a discutere al 25 di luglio e invece è stato rinviato tutto a settembre. Come mi ha scritto poco fa anche Antonio Palmieri, deputato di Forza Italia, l'abbiamo mandata in fumo. La vicenda della legge. Rimandata, tornano i tempi di Enrico Slitta. Allora, sappiate che la Carta Costa oggi va a un articoletto di Libero che ci fa sapere che ai lemuri, sapete quelli di Madagascar, i lemuri, i cugini delle scimmie, piace bere alcol. Capito? Il mojito! Ma chi se ne frega!